cosa vuoi che sia. Se amo solo te, forse è colpa mia. Come farò a dimenticarti? Non so. Tutto è cominciato così. Tu eri qui, ma i tuoi sogni. Sembra una bugia, non so se andare.